Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo di un musicista, della sua breve prima vita, della sua morte, ma della sua seconda vita. È un uomo diventato famoso a sua insaputa, che ha aiutato un intero popolo a ribellarsi contro i suoi dittatori e a diventare una nazione libera. Oggi parliamo di un sogno diventato realtà. Oggi parliamo di Sixto Rodriguez. Ci troviamo a Detroit, la città dove la 8 Miles Road divide i ricchi dai poveri, i buoni dai cattivi, o almeno questo è il luogo comune dominante, perché Detroit, capitale del Michigan, fondata da un gruppo di cacciatori di pellicce francesi nella zona dei Grandi Laghi, è diventata nel corso degli anni la sede principale dell'industria automobilistica americana. La Rock City, come la chiamano i Kiss, è una città in cui hanno trovato lavoro molte persone provenienti anche al di fuori del territorio statunitense, come un messicano che nel 1920 lascia la sua terra per inseguire il sogno americano e vive invece una vita dignitosa ma modesta, il cui bene più prezioso diventa la famiglia. E la famiglia di questo messicano, che di cognome fa Rodriguez, è talmente numerosa che per comodità il sesto figlio viene chiamato Sixto. La famiglia di mia madre è un miscuglio di europei e nativi americani. Quella di mio padre invece è di origine messicana. Mio nonno venne dal Messico per lavorare come operaio nelle fabbriche di auto. E quindi eravamo una famiglia di lavoratori, operai da manodopera pesante. Ho vissuto in 26 case diverse e alcune non avevano stanze da letto e neppure il bagno. A volte non erano neanche case, ma solo posti in cui vivevamo. Ma solo perché delle persone sono povere, non vuol dire che i loro sogni non siano grandi e che i loro spiriti siano ricchi. Da qui sono nate le classi sociali e i pregiudizi, perché si fa differenza tra te e me e tra noi e loro. Queste sono le parole di Eva Rodriguez, la più grande delle tre figlie di Sixto Rodriguez. Questo ragazzino, nato da un miscuglio di tre popoli, quello messicano, quello europeo e quello degli indiani d'America, cresce in una famiglia semplice, ma ricca di quei valori positivi, gente che lavora, che si ammazza in fabbriche, che quando torna a casa educa i figli al rispetto della legge e del prossimo. Così Sixto si tiene lontano dai guai e coltiva la sua passione, la musica. Impara a suonare una chitarra e comincia a inseguire il suo sogno, quello di diventare un cantante. Siamo agli inizi degli anni 60 e lentamente i primi cantautori cominciano a scrivere canzoni sulla classe operaia, sui disagi sociali, sulla povertà, sui diritti civili. Sono testi intensi come quelli che si possono ascoltare per esempio nelle canzoni di Bob Dylan, che proprio in quegli anni sta iniziando la sua carriera. Was it a huntsman or a player? That made you pay the cost. Anche Sixto Rodriguez scrive e le sue sono poesie che parlano della vita che gli ruota intorno, di gente semplice che si spezza la schiena, ma anche dello spacciatore che sta all'angolo della strada e diventa purtroppo un riferimento per molti giovani che non sanno trovare risposte alle loro domande, oppure della prostituta che vende il suo corpo. E Rodriguez, come ormai lo chiamano tutti, racconta queste storie con la sua chitarra, suonando nei bar dei sobborghi di Detroit, sognando di poter suonare un giorno davanti a centinaia, migliaia di persone in un concerto memorabile, magari come quello che sta per arrivare, quello di Woodstock. Nel 1969 a Woodstock si svolge il festival che raccoglie in modo totalmente inaspettato il meglio che la musica possa offrire in quegli anni: Janis Joplin, Joan Baez, The Who, Joe Cocker e naturalmente Jimi Hendrix. Sixto Rodriguez non ha ancora iniziato la sua carriera. Nel 67 ha inciso un singolo per una piccola etichetta discografica, ma è più che altro un gioco. Poi, dopo 3 anni e dopo il concerto di Woodstock che ha influenzato tutti i musicisti dell'epoca, finalmente arriva il primo vero contratto con la Success Record di Clarence Avant. That's him. È lui. That's Rodriguez. Questo è Rodriguez. This is my man. Questo è il mio uomo. I don't know when there's... Non mi fate commuovere ancora, mi sono già commosso abbastanza. And don't get me emotional again, shit. Clarence Avant, o Avant, per chi non lo sapesse, è soprannominato il padrino della black music ed è stato presidente della Motown Record, che ha lanciato tutti i più grandi cantanti della black music, da Diana Ross a Stevie Wonder fino a Michael Jackson. È uno che la sa lunga in fatto di musica e quando ascolta le canzoni di Sixto Rodriguez non ha nessun dubbio. È convinto di aver incontrato un poeta metropolitano, un genio della musica d'autore. Così lo mette sotto contratto e gli produce 2 album, Cold The Facts nel 1970 e Coming From Reality l'anno dopo. Resteranno gli unici 2 album della sua carriera. Se dovessi dire i nomi di 10 artisti con cui io abbia mai avuto a che fare, Rodriguez sarebbe nella mia classifica dei primi 5, questo è sicuro. Non c'è nulla. Non si era mai sentito nulla di simile prima di lui. La gente direbbe, beh, Bob Dylan? Io direi no. Bob Dylan non era al suo livello. Fece dei soldi? Allora, qui in America giudichiamo chi canta dal... Se mi dici, era nella top 100, arrivò al numero 12. Passava molto per radio? La risposta è no, amico. Rodriguez. Tutti sapevano che quel nome era ispanico, latinoamericano, e la musica latinoamericana non andava in quell'epoca. Sai quanti dischi penso che abbia venduto? 6. Lo comprò mia moglie, mia figlia, forse qualcun altro. Vedi, amico, in America non vendette niente. La dura legge del mercato condanna Sixto Rodriguez a una strada senza via d'uscita. I 2 dischi sono bellissimi, ma non vendono, e la stessa Sussex Record lascia a casa il suo artista quando sta lavorando al suo 3° album. Rodriguez è cresciuto in una famiglia che gli ha insegnato che devi comunque andare avanti e lavorare. È ferito nell'orgoglio, ma comunque felice di averci provato. Così torna a fare l'operaio, si occupa di demolizioni e ristrutturazioni, compra un'asta per soli $50, una casa diroccata che sistema con le sue stesse mani. Beh, è la casa dove vive ancora oggi. Going down the dusty Georgiana side road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder. Il falco dei Gabbiano. Ho sempre detto che è impossibile che un grande genio della musica possa passare tutta la vita senza emergere. Eppure quello che sta succedendo sembrerebbe smentirmi, perché Sixto Rodriguez, o come lo chiamano tutti Rodriguez, ha tentato la carriera di cantante, però non ce l'ha fatta. Dopo 2 album che negli Stati Uniti non vendono quasi nulla, il figlio della working class americana torna a casa, vive una anonima vita da carpentiere, continuando a suonare la sua chitarra solo per le sue 3 figlie. Quindi il sogno americano è finito. A Rodriguez va bene così, io mi sono sbagliato. Lui ha imparato a volare basso, a accontentarsi del poco che ha e si rassegna e continua la sua vita. Non è così, perché non ha la più pallida idea di quello che sta per succedere in un'altra città, molto lontana da Detroit. La nostra storia si spiega sposta momentaneamente dall'altra parte dell'Oceano Atlantico e più precisamente in Sudafrica. Nel 1963 Nelson Mandela era stato arrestato dal regime dittatoriale dei bianchi afrikaner discendenti dai coloni olandesi, che con una serie di vergognose leggi razziali sanciscono l'autorità politica dell'apartheid, letteralmente separazione a sfavore della maggioranza della popolazione di colore del Sudafrica. È un regime al quale tutto il mondo si oppone, con sanzioni economiche e esclusioni da tutte le competizioni sportive, prima tra tutte le Olimpiadi, da cui il Sudafrica viene estromesso fino agli anni Ottanta. È l'isolamento culturale di un paese intero. La cena è quasi pronta. Perché non hai fermato quel poliziotto? Perché quello è il suo lavoro. Portare via la mamma, il suo bambino? No, ma se la mamma non ha un lasciapassare, non può stare lì e perciò devono arrestarla. Noi ce l'abbiamo? Non ne abbiamo bisogno. Perché no? Perché siamo bianchi. Ti sembra giusto, papà? L'apartheid. È così che viviamo, Natasha. I bianchi da una parte e i neri dall'altra. È il volere di Dio, amore. Così come non mette un passero con una rondine, o un'oca con un'anatra, o una mucca con un cervo. Non è naturale. E noi non mettiamo in dubbio Dio. Beh, questo dialogo dal film Il colore della libertà è inquietante, però è veritiero nella sua tragicità. Il Sudafrica vive sotto una dittatura che insegna anche ai bambini le sue terribili regole razziali. Naturalmente c'è chi si oppone anche internamente, anche tra la popolazione alla quale viene lasciata ancora la libertà di pensare e decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma l'isolamento a cui è sottoposta la nazione rispetto al resto del mondo impedisce a queste menti libere di organizzarsi e ribellarsi. Manca un collante che apra gli occhi agli indecisi e che muova le masse. Non si sa come accade veramente. La leggenda dice che un giorno una ragazza americana viene in Sudafrica a trovare il suo ragazzo sudafricano e porta con sé una copia dell'album Cold Fact. Una delle canzoni è I Wonder e all'interno del testo c'è una frase che tradotta dice più o meno così: mi chiedo quante volte tu abbia fatto sesso. Ora, nel Sudafrica puritano e controllato dal regime era quasi impossibile affrontare argomenti spinosi come questo, come il sesso. Quindi questa canzone, con una domanda così esplicita, comincia a girare. Oggi si direbbe diventa un fenomeno virale. Allora è semplicemente un passaparola tra gli studenti bianchi delle scuole. In poco tempo il disco viene duplicato, ovviamente con copia pirata, e viene duplicato sempre più, decine e decine di volte. La salita è esponenziale. I ragazzi sudafricani, accanto a Abbey Road dei Beatles e Bridge Over Troubled Water di Simon e Garfunkel, hanno un nuovo disco, Cold Fact di Sixto Rodriguez. Sugar Man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. Jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man. Poco tempo il disco Cold Fact di Rodriguez diventa un classico, uno dei dischi che ognuno dovrebbe avere in casa. Le sue canzoni hanno dei testi che piacciono ai giovani ragazzi bianchi del Sudafrica perché raccontano la vita vera che esiste al di fuori della loro reclusa mentalmente nazione. In un mondo che ancora deve inventare internet, i testi di Rodriguez diventano l'unica fonte della realtà che c'è al di fuori dei confini sudafricani. I giovani ne fanno la loro bandiera. Vivevamo in una società dove ogni mezzo veniva usato per evitare che l'apartheid potesse finire. Questo album conteneva parole che praticamente ci liberarono dall'essere un popolo oppresso. Ogni rivoluzione ha bisogno di un inno. E in Sudafrica, Cold Fact fu l'album che diede l'impulso alla gente di liberare le proprie menti e iniziare a pensare diversamente. Questa è la voce di un giornalista sudafricano, Craig Bartholomew, che in quegli anni era solo un ragazzo e come tanti altri è attratto dalle canzoni di Rodriguez. All'interno del disco c'è una canzone dal titolo lunghissimo che in Sudafrica ricordano come The Anti-Establishment Blues, il blues anti-istituzionale. The mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets to vote dates. I ragazzi sudafricani non conoscono il vero significato della parola anti-istituzionale e grazie a questa canzone capiscono che forse si può protestare contro la propria società, si può essere arrabbiati e fare valere i propri diritti. Un gruppo di musicisti africans emerge dalla comunità bianca e si accorgono che la musica può essere un'arma con cui cominciare una guerra silenziosa per rieducare la gente ai veri valori sociali, primo tra tutti quello dell'uguaglianza. Joseph's face was black as night, the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out. These are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Mentre la comunità bianca muove i primi passi verso la libertà dall'apartheid con le canzoni di Sixto Rodriguez, Craig Bartholomew inizia a investigare su questo cantante di cui in Sudafrica non si sa nulla. Cioè non si sa neanche se sia vivo o se sia morto. Nascono leggende metropolitane. Qualcuno dice che si è suicidato durante un concerto sparandosi sul palco. Qualcun altro dice che si è dato fuoco. Beh, per sapere com'è andata veramente, restate qua. Torniamo tra poco. Falco e il Gabbiano. La puntata di oggi è dedicata a Sixto Rodriguez, l'uomo che visse due vite diverse, l'uomo che a sua insaputa diventò un mito e aiutò una nazione a ritrovare se stessa. Allora, abbiamo lasciato Rodriguez a Detroit, dove dopo due album pubblicati e la delusione di non essere riuscito a sfondare è tornato piuttosto serenamente a fare il carpentiere. Invece, dall'altra parte del mondo, a Città del Capo, in Sudafrica, Craig Bartholomew, il giornalista, continua a seguire gli indizi che derivano da poche frammentarie notizie che si possono ricavare dai testi di Rodriguez. Ci sono riferimenti a Londra, a Amsterdam, a un grattacielo, ma il mondo è pieno di grattacieli. Alla fine non c'è nulla che possa servire a trovare Rodriguez. Teniamo presente che siamo nell'era pre-internet. Fondamentalmente mi sentivo perso. Ero arrivato a un vicolo cieco, non riuscivo a trovarlo e non sapevo neppure dove cercare. Avevo visitato tutti i posti di cui aveva parlato nelle sue canzoni. Ero stato a Londra, niente. Ero stato ad Amsterdam, niente. Alla fine avevo gettato la spugna. Pensai, è finita. Poi un giorno stavo ascoltando in auto Inner City Blues e arrivò quel verso. Early 6 o'clock this morning, a cold fact. Met a girl from Dearborn. Early 6 o'clock this morning, a cold fact. Asked about the bag, suburbia such a drag, won't go back. Dunque, Dearborn. Forse una città che Bartholomew non aveva controllato. Una rapida ricerca ed eccola lì, sull'Atlante. È un sobborgo di Detroit. È la patria della Motown, la città operaia in cui si respira musica. È la città soprattutto in cui trovare Mike Theodore, che è il produttore del famoso disco di Rodriguez. Finalmente ecco il numero di telefono del produttore americano. Bartholomew chiama e inizia a raccontare al suo interlocutore la storia di questo mitico cantante che in Sudafrica ha venduto decine di migliaia di dischi e che si è ucciso sul palco. C'erano centinaia di domande che volevo fargli. Speravo solo di fargliele tutte. Perché ha scritto quel testo? Perché ha scritto quell'altro? Dove ha registrato quell'album? E più parlavo e più mi venivano in mente domande da fargli. Era magnifico. Alla fine arrivai alla domanda a cui volevo tanto una risposta. Come è morto Rodriguez? E Mike Theodore disse: ma che dici? Non è morto. Sixto è vivo. Vivo e vegeto. Il grande artista conosciuto come Sixto Rodriguez è vivo e vegeto e abita a Detroit. Sixto Rodriguez is alive and kicking. To make a dream survive, to calm a storm inside. Alive and kicking, stay until your love is. Alive and kicking, stay until your love is. Until your love is alive. Alive and kicking. Rodriguez ha finalmente un nome, Sixto, ed è vivo e vegeto. E questa è una notizia che sconvolge tutto il gruppo di persone che con Bartolomeo era cresciuta ascoltando le canzoni di un Rodriguez che credeva morto. È un po' come se oggi qualcuno dicesse che Elvis Presley non è morto e vive da qualche parte negli Stati Uniti. Beh, il mito che torna a essere realtà, il Dio è resuscitato. Ecco perché Bartolomeo scrive il suo articolo e lo intitola Looking for Jesus. Alla ricerca di Gesù, o meglio di Jesus, dal momento che in un disco alcune canzoni risultavano scritte da Jesus Rodriguez. Ma malgrado Mike Theodore abbia giurato che Sixto Rodriguez è vivo e che abiti a Detroit, nessuno ha un indirizzo per rintracciarlo. Ma l'articolo comincia a circolare e intanto arrivano i primi siti web e Bartolomeo ne crea uno, ci mette la foto di Rodriguez su un cartone del latte come si usa in America per cercare le persone scomparse, ed accade il miracolo. Agosto 97, ero in Kansas, me ne capitò una copia in ufficio. Lessi l'articolo e andai sul sito web e lì c'era il cartone del latte con la foto che diceva: avete visto quest'uomo? E io mi dissi: effettivamente lo avevo già visto. Risposi sul forum: è mio padre, davvero. E diedi il mio numero di telefono e la mia email. E lui mi chiamò. Eva, una delle tre figlie di Rodriguez, entra in contatto con l'uomo che per tanti anni ha cercato notizie su quel cantante che con le sue canzoni ha smosso le acque del Sudafrica oppresso dall'apartheid. Da lì inizia una serie vorticosa di telefonate, grazie alle quali Sixto Rodriguez viene invitato a Città del Capo per una serie di concerti. Sixto ha paura che ciò che sta accadendo non sia vero, è scettico, cioè è realista. La sua chance lui l'ha avuta qualche anno fa, è andata male, questo è un fatto. Per andare avanti bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, non inseguire dei sogni. Ma il sogno invece si avvera e la famiglia Rodriguez parte per il Sudafrica. Fu un viaggio molto lungo, anche perché eravamo impazienti di scendere dall'aereo. Quando arrivammo, prendemmo le nostre borse e scendemmo dalla scaletta. C'erano tre limousine accanto all'aereo e io dissi a mio padre: giriamoci attorno, lasciamo spazio, perché probabilmente devono scendere dall'aereo delle persone importanti. Ma le limousine erano per noi e quello fu solo l'inizio. Eh sì, le limousine sono proprio per Sixto Rodriguez e per la sua famiglia. La strada che dall'aeroporto porta in città è tappezzata con i manifesti suoi, la sua faccia sul muro, la pubblicità del suo concerto. Quando l'auto arriva a destinazione ci sono i paparazzi a scattare foto. Sixto sembra addirittura frastornato da quella improvvisa e inaspettata popolarità. Però nello stesso tempo è felicissimo perché sta finalmente dando quel colpo d'ala, quello che lo porta a raggiungere quasi 30 anni dopo i frutti della passione e del talento che nella sua patria nessuno è riuscito a capire. Allora avevo ragione io, un talento non può rimanere sepolto tutta la vita. Are you ready? È il 6 marzo 1998. A Città del Capo si svolge il primo di 6 concerti che Sixto Rodriguez terrà in quel suo primo viaggio in Sudafrica. Nessuno, né lui né le sue 3 figlie, immaginano ciò che sta per accadere. Sixto pensa che alla fine, dopo tutti questi anni, ci saranno una 50 di persone a vedere il concerto. In fondo ormai la questione razziale è un problema risolto. La gente non ha certo più voglia di ascoltare un vecchio che canta le sue canzoni di protesta. Bene, si sbaglia, perché alla fine dei 6 concerti sempre sold out, le persone venute a applaudire il loro eroe saranno 30.000. Oh, they were so sweet. Furono davvero carini. Non ci potevo credere e ancora non ci credo. Ma il fatto è che quando entrai nel palazzetto e vidi quelle 5.000 persone sedute ognuna sul suo bel seggiolino bianco, e poi le vidi scattare in piedi e avvicinarsi al palco e battere le mani e cantare a memoria le canzoni, beh, ragazzi, il Sudafrica mi ha fatto sentire più che un principe. Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. Beh, se pensate che sia finita qui con gli autografi, i concerti e la folla che acclama Rodriguez, beh, vi sbagliate, perché questa favola moderna ha ancora un capitolo da raccontare. Intanto cominciamo col dire che questa ritrovata popolarità non rende Sixto Rodriguez miliardario, perché i dischi stampati e venduti negli anni in Sudafrica sono legati a licenze di case discografiche ormai chiuse, e nessuno riesce con certezza a risalire a chi siano state pagate le royalties sulle vendite. Si dice che Cold Fact, il primo disco di Rodriguez, abbia venduto più di 500.000 di copie, ma da queste vendite a Sixto non è arrivato neanche un centesimo. Ciò che invece accade è che un regista svedese decide di girare un documentario, un docufilm su Sixto Rodriguez dal titolo Searching for Sugar Man. Il bellissimo documentario, che vi consiglio di vedere, ha un grande successo, tanto da arrivare a vincere l'Oscar come miglior documentario nel 2013. Okay, and the Oscar goes to Searching for Sugar Man. This is the first Academy Award and nomination for Mullet Ventaloo. L'uscita del documentario e la partecipazione al Sundance Festival nel 2012, l'anno prima di vincere l'Oscar, riporta alla ribalta Rodriguez anche in patria, negli Stati Uniti, dove viene invitato nei principali talk show a raccontare la sua storia e, naturalmente, finalmente, a suonare la sua musica. That's beautiful. Thank you, everybody. Thank you. Good to see everybody. Thank you very much. Rodriguez. Pleasure to meet you, sir. Thank you so much for being here. Here it is, the soundtrack from the motion picture, and it's fascinating and wildly entertaining and incomprehensible, but true. It's Searching for Sugar Man, and this is Rodriguez. Thank you. Thank you again. Thank you. Thanks for watching. Good night, everybody. Quando vai da David Letterman è fatta, e adesso sì che accade qualcosa e si possono finalmente raccogliere i frutti del lavoro. La partecipazione ai talk show, l'Oscar, permettono a Sixto Rodriguez di diventare famoso in tutto il mondo. La sua musica ormai è conosciuta e rivalutata ovunque, e negli ultimi 3 anni Rodriguez è perennemente in tour. Negli Stati Uniti, ma anche in Australia e in Europa, dove riempie i teatri. Anzi, se andate sulla sua pagina ufficiale, dovrebbero esserci anche 2 o 3 date in Italia. Però Sixto non riesce a fare la vita da star, perché i soldi li dà alle sue figlie, ai suoi amici, a quelle persone che per 70 anni ha frequentato, agli operai che hanno lavorato in fabbrica con lui, agli amici del bar dove ha trascorso tante serate in allegria. Vive ancora oggi, dopo 40 anni, nella sua modesta casa a Detroit, quella che si è costruito da solo. Ricordate, è un menestrello che con le sue canzoni ha aiutato un popolo a ritrovare la voglia di alzare la testa e di combattere contro le ingiustizie, e questo gli basta. La storia di Sixto Rodriguez dimostra in maniera inequivocabile che ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita quel colpo d'ala hanno saputo darlo, hanno saputo volare in alto e fare qualcosa che ha lasciato il segno. Di chi ci è riuscito, di chi ha tentato, di chi come Sixto ha avuto una risalita all'ultimo momento, prima del gong, perché ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche dare quel colpo che lo porta a volare. Come il falco o come il gabbiano. Beh, se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci qualcosa di cui volete che noi si parli, fatelo per esempio a ilfalcoeilgabbiano@radio24.it oppure Facebook, Twitter, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.